soldi, amore tra i palazzi. Ma baby, torno sola in taxi, sul serio. Stasera non vengo con te. Faccio mille foglie a pezzi, ma a pezzi non lo farò mai su di nero. A volte veleno, ho finito l'inchiostro ed urlarti addosso. La penna sul foglio non scrive e cancella ogni nostro ricordo. Se finisce il mondo, tu mi giri attorno. Quando si fa notte noi restiamo insieme finché si fa giorno. Forse impazziremo, ma non per colpa mia. Ma non sarà mai tardi per cucire quei tagli. Mi chiami, ti perdo, ti scrivo, mi pento fra tanti. Soldi, amore tra i palazzi, ma baby torno sola in taxi, sul serio. Stasera non vengo con te. Faccio mille foglie a pezzi, ma a pezzi non lo farò mai su di nero. A volte veleno, borse di Witton. Gira questa giostra come un carillon. Ma a me non importa dove finiremo e dove saremo. Quando io ci resto male, non mi arrabbio più. Ora come sto, posso la testa, non voglio avere nemmeno un problema. Sai che detesto quella ragazza che gira attorno a te. Forse impazziremo, ma non per colpa mia. Ma non sarà mai tardi per cucire quei tagli. Mi chiami, ti perdo, ti scrivo, mi pento fra tanti. Soldi, amore tra i palazzi, ma baby torno sola in taxi, sul serio. Stasera non vengo con te. Faccio mille foglie a pezzi, ma a pezzi non lo farò mai su di nero. A volte veleno e borse di Witton.